dire, quello di Benvida rispetto invece a quello vagato di Greg Davis, ma un disco fatto insieme nel 2010, è veramente disco pregevole e splendido per passaggi, per capacità appunto di trattare veramente tante musiche. Ci andiamo appunto ad ascoltare. Thank you. Dalle vecchie scomposizioni di vecchi calcolatori elettronici fatte da Ben Vida e Greg Davis, invece alla scomposizione creata attraverso il film The Recording, attraverso la sonorizzazione di Brooklyn fatta dal progetto Enough. Enough, progetto quello di Brooklyn, scomposizione, come prima accennavo, legata all'ambiente sonore, quel grande anche tra l'altro teatro sonoro che è Brooklyn, in questo caso quindi una scomposizione che viene dal lavoro di Field Recording, di Drone, che si trova quasi naturalmente, il drone, il rumore in lontananza che attraversa appunto Brooklyn, sia con quella forse memoria anche di ex quartiere operaio, poi di quartiere decisamente sonoro, decisamente legato al rumore, e quindi anche qua il drone, e poi appunto questa vocazione generale che appunto si ha guardando tra l'altro dalla costa appunto di Brooklyn a Manhattan, e quindi anche tutto un immaginario che viene a crearsi ovviamente per quanto riguarda Enough, e beh, c'è soprattutto un'idea sonora, chiaro che non possono esimersi, anzi si tuffano dentro, e non è un caso insomma che ci sia proprio la ricerca sul campo del suono, del appunto come dicevo prima del field recording che accompagna insomma i lavori di Enough, questo progetto che è un progetto in realtà abbastanza estemporaneo, che però appunto riesce a dare insomma grandi possibilità anche appunto a un modo di comporre che viene sì dalle avanguardie, prima insomma abbiamo citato più di una volta insomma questo questo viatico appunto dell'avanguardia rispetto a quello che è appunto un percorso che vede la composizione, scomposizione come preminente in termini appunto di scrittura musicale, per quanto insomma di scrittura sui generis ovviamente. E con appunto Enough che c'è dentro veramente un calderone musicale, oltre che umano, sonoro appunto, che viene appunto espresso anche in termini di appunto ideazione, la scomposizione diventa materia sonora, materia sonante, anzi potremmo dire in questo senso, appunto attraverso quello che è un immaginario sonoro poi appunto ben delineato e descritto da appunto Enough, per quanto riguarda Enough appunto in Brooklyn. Passando a altro personaggio insomma più o meno recente, sempre con tra le corde le avanguardie storiche, ma anche appunto quelle legate a Zappa, a Don Preston, che abbiamo ascoltato appunto nella prima parte di 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia per questa scomposizione, sicuramente Kate Fullerton Whitman è uno dei personaggi senz'altro più interessanti per quanto riguarda proprio il trattamento elettronico, sia con quella consapevolezza appunto delle elettroniche che sono state trattate in maniera più o meno sperimentale. In questo senso c'è anche proprio veramente un vero e proprio lavoro filologico che viene fatto da Kate Fullerton Whitman, come d'altronde anche per quanto riguarda Ben Vida e Greg Davis, come prima dicevamo, ma anche appunto Enough, che oltre che materia musicale, anche accennavo insomma poc'anzi a materia umana, Carla Michael von Auswolf, Jason Lescalet e Joachim Nordvall, nomi tra l'altro piuttosto consueti dentro le nuove sperimentazioni, soprattutto dagli anni zero in poi, ma con von Auswolf andiamo anche prima, già fondiamo negli anni 90, e c'è il Fullerton Whitman che prima inizia come terrorista sonoro, e quindi una digitalizzazione estrema, un noise digitale che lo porta anche insomma alla scena breakbeat core americana, American Breakbeat, come una storica compilation insieme a Lesser e a vari guastatori sonori, insomma, che porta poi come dire anche a una scoperta di quelle che sono le matrici sonore delle mother, potremmo dire, citando appunto Zappa più o meno volontariamente, e quello che fa Whitman rispetto appunto al suo progetto precedente, creando la Crippon, e quella di riscoprire anche lavori occultati delle avanguardie storiche delle elettroniche, quindi con file che girano su internet, ma anche CDR che raccolgono insomma lavori eccezionali appunto del dopoguerra elettronico, quindi in questo caso un lavoro seriamente filologico rispetto appunto alla riscoperta di grandi gioielli dei lavori sotterranei e sotterrati anche per molti aspetti della discografia più o meno ufficiale appunto di molti neoavanguardisti degli anni 50 fino ad arrivare insomma agli anni 70 e vari poi personaggi che diventeranno di riferimento per quanto riguarda che i Fullerton Whitman come Terry Riley, Rhys Chatham, Tony Conrad, eccetera. E Whitman, che invece con Disingenuity andiamo a trovare appunto più legato a quella scomposizione, e che poi non era nient'altro, con questo orientato non si vuole semplificare, anzi si vuole trovare quell'approccio diretto anche che sembrerebbe assai estraneo alle avanguardie degli anni 50. In realtà anche il trattare direttamente con le elettroniche e con le prime strumentazioni elettroniche a disposizione, con i primi computer, comporta senz'altro anche una sorta insomma di gioco che per forza di cose veniva a crearsi nel momento in cui appunto ci si trova uno strumento che non si conosce ancora bene, non si conoscono ancora le potenzialità, vengono appunto esplorate quasi appunto in maniera infantile, se questo non ci portasse insomma un'idea troppo romantica, però di fatto succede questo quando ci si mette insomma di fronte a una strumentazione che soprattutto aveva un immaginario poi assolutamente fantascientifico negli anni 50. Kate Fullerton Whitman forse è più di Ben Vide, Greg Davis e anche di Enough, ci porta dentro quel mondo, quella fantascienza appunto evocata dentro i suoni appunto di questo Disingenuity, forse sì un'ingenuità perduta, ma forse anche poi volutamente ritrovata, quindi anche scomposta in questo senso, anche non soltanto in termini sonori.

Kate Furlan-Whitman, appunto, dal suo Disingenuity, e come l'arte della scomposizione, poi una scomposizione che viene da, appunto, i rimandi all'elettronica, appunto, degli anni 50, delle nuove avanguardie, e dentro l'ex Swarovski, quindi al terrorista digitale, diventino materia per fare una sorta di orchestrazione, per quanto, insomma, folle, con macchine che impazziscono, però che, appunto, partono da una scrittura senz'altro molto, molto forte, rispetto, appunto, a quello che è il suono elettronico, in questo caso al suono elettronico che poi diventa digitale, ma non scorda, appunto, la propria natura analogica, soprattutto in termini, appunto, di composizione, quella composizione, appunto, che è arte dello scomporre, del trattare, appunto, i temi, potremmo dire, basi del suono, per, appunto, avere altre possibilità in termini, appunto, di riscrittura del suono elettronico in chiave, appunto, sperimentale, quindi in una chiave, appunto, di possibilità nuove date a scritture che di fatto, insomma, diventano novità in termini di ricerca sonora, come quella, appunto, di Kay Fullerton-Whitman, ma che potremmo anche, appunto, trovare dentro Ben Vida e Greg Davis, ascoltate prima, o Enough, appunto, come dico male, insomma, in inglese Enough, forse un po' meglio, e detta così, insomma, con l'inglese, insomma, che ovviamente ci porta da tutte le parti, insomma, italo, inglese, forse da Broccolina in poi, ecco, visto che abbiamo prima detto di Brooklyn, citando, insomma, il progetto Enough, forse, vabbè, e per concludere questo 451 frammenti sonori, scompositivo, scomposto, speriamo, insomma, ricomposto, come la mia faccia, ecco, che pian pianino sta prendendo, insomma, forma, rispetto, appunto, a una scomposizione incidentale o accidentale, se vogliamo, e concludiamo con un progetto di quelli veramente estratti, tipo da un cappello magico, art elettronica, anzi art ensemble, personaggi veramente dietro laboratori sonori folli, incredibili, degli anni 80, 1982, Gramavision faceva uscire questo Inquietude, veramente disco inquieto nel vero senso della parola, questo, dove le macchine, anche qua hanno un trattamento, sì, memory delle elettroniche degli anni 50, ma anche di quella alienazione trattata da Don Preston e Michael Manter, ma anche quella materia strana, astratta, trattata da Feeding the Monkeys di Zappa, Clive Smith, Gregory Kammer, Russell Dorwart e Stephen Orelick, questi personaggi che lavoravano nell'ombra, nella penombra delle sperimentazioni, appunto, digital analogica degli anni 80, per recuperare, insomma, forse un tassello mancante, ma neanche tanto, dentro le musiche trattate fino a questo momento dal sottoscritto Max Macchia, che tra l'altro dedica questa puntata a Pier Antonio Pezzinga, che in questo periodo, 3 anni fa, ci lasciò, e così forse anche per comporre e ricomporre un puzzle, insomma, legato alla ricerca sonora, anche, appunto, attraverso e la radiofonia, in questo caso quella di Radio Città Fujiko, e nello specifico di 451 frammenti sonori. Vi rimando a mercoledì prossimo, più o meno composti, ricomposti, scomposti e quant'altro. Un saluto da Max Macchia con questa appunto inquietudine dell'Electronic Art Ensemble, difficile da definire, forse ecco, se devo dare un rimando filmico e visivo, quel Liquid Sky, capolavoro dell'underground newyorkese degli anni Ottanta, un film veramente deragliante, veramente scomposto in mille pezzi per poi ricomporsi in una maniera assolutamente originale, appunto come la fascia fantascienza defagrante, no wave potremmo dire, elettro no wave di Liquid Sky, forse per ritrovarci insomma dentro una immagine visiva di Electronic Art Ensemble, che invece troviamo per concludere appunto con Inquietude, questo capolavoro insomma degli anni Ottanta che andiamo appunto a ritrovare per salutarvi e per rimandarvi appunto al prossimo 451. Grazie a chi ci ha ascoltato, anche agli astanti in studio che pazientemente con facce più o meno scomposte vi salutano, anzi forse indirettamente appunto citando anche come dire le voci assenti ma presenti per molti versi dentro 451 frammenti sonori. Alla prossima, ciao, fate i bravi come al solito. Thank you. Yeah.